I poli del problema sono due in ogni caso, cioè da una parte il rifiuto del fascismo, il rifiuto della cultura fascista, dall'altra rimuovere le cause che generano, che alimentano la cultura del fascismo, e quindi sostanzialmente il discorso del malcontento, dell'insoddisfazione. La storia ci insegna che le grandi crisi sono fautrici di conservazione, perché sono prima di tutto fautrici di insoddisfazione, di rabbia. Gli italiani oggi sono attraversati da un profondo malcontento che si traduce anche in fenomeni di rabbia proprio. Lo vediamo in tanti aspetti della nostra vita sociale. E quindi bisogna riuscire a muoversi su questo piano. La crisi ha seminato grandi ingiustizie, grandi disuguaglianze, e bisogna agire su questo piano, cioè riequilibrare dal punto di vista economico, sociale, del welfare, quelle che sono le condizioni degli italiani. Lei pensa quindi anche che le ricette di austerity abbiano innescato questa sorta di guerra fra i poveri? Sicuramente, hanno ancor più aggravato quelle che sono le condizioni che la crisi ha dettato, e il restringimento poi dei canali, e anche sul piano delle tassazioni, delle restrizioni, hanno sicuramente portato un grosso contributo a questo fatto. Ovviamente non posso non chiederle anche un commento rispetto alla questione della manifestazione antifascista a Macerata, perché secondo lei molti partiti, anche che vengono da una storia antifascista, hanno avuto titubanza nel aderire a questa iniziativa? È veramente molto triste questa constatazione, nel senso che c'è questo clima di retorica, c'è questo clima di non volersi mostrare a difesa dei valori antifascisti, che a me preoccupa veramente tanto, mi preoccupa moltissimo, e giudico assolutamente scorretto, codino, non avere partecipato immediatamente e con entusiasmo a questa manifestazione. Non ci si può comportare in questo modo di fronte a un episodio di tale gravità. E il fatto che così il governo, il centro-sinistra, insomma, il governo non abbia voluto partecipare, abbia tentato in tutti i modi di rimandare questa manifestazione, è davvero scoraggiante. Bisogna uscire da queste logiche, bisogna ritornare ad una logica di più onesta partecipazione a quelli che sono i sentimenti popolari. Non a caso a Macerata è andata tanta gente bella e colorata a esprimere con molta franchezza quello che pensava e la sua ostilità a questo tipo di cultura, a questo tipo di episodi, ed è stata una risposta meravigliosa, proprio perché assolutamente spontanea, assolutamente fuori dagli schieramenti politici, partitici, ed è stato un bel esempio di partecipazione popolare. Tornando all'inizio, appunto, dicevamo contrastare le disuguaglianze per contrastare i neofascismi. Tra le proposte programmatiche di Liberi Uguali, quali sono le misure per contrastare le disuguaglianze? Beh, innanzitutto interventi sul lavoro, per rendere più garantito il lavoro, per far uscire dalla precarietà i nostri giovani, per dare sicurezza economica e quindi sicurezza sociale. Legato a questo, tutto il tema, il grande, grandissimo tema del welfare, che negli anni è stato eroso e ha accentuato ancora di più, assieme all'insicurezza economica, ha accentuato ancora di più il senso di disagio, di insoddisfazione, di insicurezza. Poi un altro tema, a mio modo di vedere, e sono i temi di cui mi occupo poi con maggiore competenza, il tema della casa. Non può esistere una società nella quale tantissime case appena costruite, o comunque un numero rilevantissimo di abitazioni, rimane inutilizzato e dall'altra parte una marea di persone non riesce ad avere una casa, non solo in proprietà ma neppure in affitto, perché non riesce a pagare un affitto di mercato. In Italia i finanziamenti per la edilizia popolare sono praticamente inesistenti, bassissimi, con delle politiche abitative che sono andate solo in direzione di chi la casa poteva acquistarla e hanno trascurato una fascia importantissima di popolazione. Quindi questo altro tema enorme. Poi la sanità, insomma, cioè bisogna riportare riequilibrio all'interno dei settori che in tutti questi anni sono stati trascurati. La cosa che a mio modo di vedere manca di più in Italia è lo Stato, e cioè bisogna recuperare il senso e la capacità operativa della statualità. Lo Stato è venuto a mancare, cioè questa ondata neoliberista che ha spostato sul piano della privatizzazione anche buona parte dei servizi di pubblica utilità, ha portato un livello di disorganizzazione e di disfunzionalità che viene poi pagato dai cittadini. Quando il cittadino viene abbandonato dalla statualità, è chiaro che poi facilmente diventa preda di idee reazionarie, tanto più poi quando appunto la sinistra, il centro-sinistra si rifiuta di prendere posizione a questo riguardo, e quindi diventa poi preda di queste parole d'ordine conservatrici, autoritarie, che parlano di ordine, che parlano di sicurezza in maniera autoritaria, no? Ed è un pericolo spaventoso che vediamo bene. Non è scomparso il fascismo, lo sappiamo benissimo, anche proprio nella definizione di fascismo. Non sto parlando soltanto di una cultura conservatrice, ma anche proprio di una cultura fascista. Lo vediamo che esistono questi gruppi.